Con Laura Consumati, presidente del Carnevalone Liberato, a Poggio Mirteto, domenica 10 marzo 2019. Laura, ben trovata. Per Grazie. chi non lo conoscesse, raccontiamo un po' l'origine di questa festa. Allora, questa festa è una festa molto antica, sì, che risale al 1861 in pratica, quindi nel pieno dei modi per l'annessione al Regno d'Italia. Poggio Mirteto era ancora stato pontificio e si festeggiò la liberazione che gli stessi abitanti di Poggio Mirteto fecero da soli per annettersi al Regno d'Italia e decisero di festeggiarla proprio la prima domenica di Quaresima. Noi come circolo l'abbiamo ripresa questa tradizione perché purtroppo con i patti lateranensi si era interrotta e era stata riportata la data canonica. E invece noi abbiamo, cioè non, noi mi ci metto anch'io, però il circolo ufficialmente è nato nel 74, io non ero nata invece, e nel 1977, quindi alcuni dei soci storici che ancora di tuttora lavorano nel Carnevalone Liberato hanno deciso di riprendere questa tradizione. Quest'anno siamo alla 43esima edizione del Carnevalone Liberato. Bene. Come si caratterizza? Raccontaci un po' gli orari e l'organizzazione, la strutturazione della festa. Beh, la festa è, diciamo, atipica rispetto ai carnevali perché in realtà è un grande palco a cielo aperto, ci sono vari punti musicali, ci sono spettacoli di strada, tutto si svolge nella piazza principale del paese e nel centro storico. Di solito la festa inizia alle 11:30, sperando che il tempo regga, perché ultimamente non ci è clemente il clima, però alle 11:30 viene portato in piazza il tradizionale bamboccio che ogni anno è un pupazzo che raffigura un personaggio politico, un personaggio d'attualità, che poi viene bruciato alla fine della festa, quindi al tramonto. Gli spettacoli iniziano tutti quanti verso le 13:30, mentre a mezzogiorno abbiamo gli stand gastronomici e quindi si può mangiare anche in piazza. Quest'anno sì, ci saranno artisti di strada che faranno quindi spettacoli itineranti e abbiamo quattro postazioni musicali fisse e cinque bande marcianti che ci hanno dato la loro conferma. Comunque il programma è tutto sul nostro sito e sui nostri social. Senti, il rapporto con il paese da una parte e con l'amministrazione dall'altra. L'amministrazione ci sta dando una mano nell'affrontare questa circolare Gabrielli che ha messo un po' in ginocchio tutte le feste e le iniziative di paese. Infatti, in questi anni sono drasticamente diminuite le feste perché sono impossibili le quasi impossibili le prescrizioni da seguire alla lettera. A noi, nello specifico, classificandoci la festa come rischio medio, ci hanno imposto un piano sanitario anche molto oneroso, che per un'associazione sono costi, diciamo, proibitivi sui 7-8 mila euro solamente per avere ambulanze e personale sanitario, perché ecco, la questura questo ce lo impone. Però l'amministrazione comunale ci sta dando una mano in questo senso. Purtroppo, ecco, sono un po' le forze dell'ordine che invece ci levano contro. Senti, l'attività dell'associazione prosegue anche durante il corso dell'anno? L'attività, sì, beh, il circolo, sì, noi ovviamente la festa principale è questa, ma come circolo organizziamo iniziative ad aprile, quindi nell'ambito della Resistenza. Abbiamo un calendario abbastanza fitto ad aprile, c'è cioè una commemorazione della battaglia del Tancia, perché Poggio Mirteto è stata molto attiva la Resistenza, soprattutto anche romana, no? Quindi da Roma venivano a supportare i partigiani della zona. C'è stata una battaglia il 7 aprile dove sono morti diversi partigiani e c'è stata anche una feroce rappresaglia nazista. E noi ricordiamo quel giorno anche con una maratonina che parte dalla piazza di Poggio Mirteto e arriva fino al Monumento ai Caduti. E poi ovviamente il 25 aprile. Ma cioè, facciamo anche iniziative sociali tutto l'anno, ad esempio portiamo avanti tutte le sere l'iniziativa della raccolta alimentare solidale, quindi abbiamo dei volontari che si occupano di andare a riprendere cibo in scadenza nei locali che aderiscono, nelle strutture, nei negozi che aderiscono e lo redistribuiamo a chi ne ha bisogno anche per una questione di spreco, per combattere lo spreco alimentare. E niente, poi facciamo diverse iniziative per bambini e collaboriamo tutto l'anno anche con un'iniziativa sul cinema per riportare il cinema nei piccoli paesi. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il 43esimo Carnevalone Liberato a Poggio Mirteto, domenica 10 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento alla Presidente Laura Consumati. Laura, un abbraccio, in bocca al lupo, ci vediamo lì. Grazie, un abbraccio a voi, grazie.